Questo strano dolore che non si lascia dire e che vuole restare, che vuole sparire e ogni volta scompare nel sonno di un abbraccio e ogni volta riappare nel fruscio di uno sguardo. Quando improvvisamente tu batti le tue ciglia e diventi qualcosa che non ti rassomiglia e che torna lontano come un graffio, una smorfia, una mano straniera che mi chiude la porta e ti cerco. E cercarti e trovarti e non trovare niente, ma solo qualche cosa che mi chiama da sempre dal fondo di un abisso dove precipitiamo e chiama all'improvviso e appare alla lontana e noi precipitiamo e tutto resta atteso e restiamo aggrappati a un respiro sospeso e in cima a quel respiro precipitiamo ancora verso una notte larga dentro i tuoi occhi chiari dove il tempo si rompe e si cade soltanto e non si sa più dove e non si sa più quando e ti guardo guardare in una melodia che da un momento all'altro se ne può tornar via e lasciarmi da solo a morire davvero nella sala d'aspetto prima di un cimitero dove si aspetta il turno preparando i vestiti mettendoli in valigia, tenendosi puliti. Dentro questo noioso paese dei balocchi che si rompe ogni volta che ti cado negli occhi e non andare via e dammi la tua bocca e dammi i tuoi capelli e dammi le tue mani e tutto questo corpo che tiene il tuo respiro e che sei solo tu e che sei te davvero e buttamelo addosso e poi fallo danzare e fatti maledire e fatti carezzare con queste mie carezze che ti fanno apparire con queste mie carezze che sono il modo mio mentre ti lasci fare sai che ti faccio io non sono nessun altro e non ti ha fatto Dio e tu sei solo tu diversissima e strana inventata di nuovo per portarmi lontano e si diventa tigre, si diventa pantera in un silenzio forte carico del tuo odore e comincia la danza noi da sempre danziamo il tempo non esiste noi da sempre ci siamo e non c'è più la storia non ci sono vestiti ma cadiamo all'indietro in un volo infinito indietro verso l'alba che spalanca le porte perché prima del giorno prima c'era la notte un'infinita notte ed un prima infinito che non è più la morte e non è solo vita ma il tuo corpo che ride e che poi si abbandona si fa tenere in braccio e che si muove piano e che si fa cercare teneramente osceno e che ancora sorride e ancora si abbandona. Siamo la linea d'ombra tra la tenebra e la luce, un lungo filo teso tra la veglia ed il sonno, dove da sempre il mare respira e si richiude, dove la porta è schiusa, la linea d'ombra. Siamo gli equilibristi di un lungo filo d'oro teso tra un gesto e un altro, tra un respiro e un respiro. Siamo dove ogni cosa diventa un'altra cosa. Siamo nella penombra, siamo la linea d'ombra. E dove queste mani diventano parole, e dove le parole mi diventano voce, e dove questa voce mi diventa canzone, che mi ritrovo addosso e non mi sembra mia, perché c'era da prima che l'avessi inventata, ed è venuta sola a farmi compagnia, e per addormentarmi e per addormentare, come ci si addormenta nel rumore del mare. In questo corpo chiaro dove so scivolare fino a che svaniranno i segni sulla pelle e tornerà di nuovo magari all'improvviso e dovremo di nuovo cantare una canzone a quella strana cosa che non si lascia dire a quella strana cosa che ci fa quel che siamo questo strano dolore strano.